GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Al via il vertice che celebra i 60 anni della NATO, all'ordine del giorno anche la situazione in Afghanistan, Sarkozy incontra Obama. E ci sono stati 300 arresti ieri negli scontri fra manifestanti e polizia a Strasburgo. 3 italiani su 10 hanno dichiarato nel 2006 meno di 10.000 euro, il reddito medio è di 18.000 euro. Schifani, stop a Fini, dopo le dichiarazioni del presidente della Camera sulla legge 40. Sono norme buone, dice la seconda carica dello Stato, senza dogmi. L'alta corte del Malawi dice no a Madonna, ha rigettato la domanda di adozione. Record di ascolti per una pay TV dello show di Fiorello su Sky 1. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. Passiamo da un vertice all'altro, Alessandra. Dal G20 di Londra a quello della NATO, che si svolge oggi e domani fra Strasburgo in Francia e Baden-Baden in Germania. 65 km di distanza, quindi non tanto, insomma, le distanze non sono così grandi. È previsto, è appena terminato un incontro bilaterale fra Sarkozy e il suo omologo americano, Barack Obama. In diretta da Strasburgo, Mario Platero. Mario. Eccoci, sì, sono in questo momento in una specie di grande palestra dove sta per avvenire un town hall meeting, quindi un pizzico d'America fra la Germania e la Francia, e Barack Obama interverrà per parlare con la gente. Ci sono una gran quantità di studenti, autobus che sono venuti da Stoccarda, da Tubinga e da altri paesi invece francesi. Naturalmente le scuole di Strasburgo sono rappresentate, noi siamo in questo momento qui appunto a Strasburgo. L'incontro di questa mattina direi è stato cordialissimo, l'attenzione era soprattutto sulle due First Lady, e così abbiamo visto Carla in un perfetto abito grigio impeccabile, invece Michelle aveva un abito un pochettino più vistoso, viola con dei fiori neri. I due presidenti erano molto a proprio agio, insomma si sono trovati amichevolmente, hanno ascoltato l'inno nazionale e poi il dialogo bilaterale, soprattutto a cavallo di questo vertice NATO e con la chiusura del vertice G20. Ecco, NATO ci sono ovviamente molte problematiche, l'America vorrebbe più truppe per l'Afghanistan, vorrebbe un impegno maggiore. Ieri ho avuto una conversazione con un gruppo di altri giornalisti, con il segretario di Stato Hillary Clinton e con Jim Jones, che è il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ex generale della NATO, quindi una persona che conosce a fondo le problematiche, e l'idea è che si potranno trovare dei compromessi con diciamo dei contributi fra virgolette in natura, per esempio dei contributi finanziari, degli aiuti umanitari, delle forze per l'addestramento in Afghanistan, ma l'impegno sul fronte afghano resta quello principale per il presidente Obama, che ha sì chiuso in prospettiva naturalmente il fronte iracheno, ma sull'Afghanistan è determinato, deciso ad andare fino in fondo. Ne va dell'equilibrio della regione, dell'equilibrio del Pakistan, quindi è una zona sul piano nevralgico molto più importante. È una zona caldissima sicuramente. Mario, dicevi un altro tema oltre all'Afghanistan? Un altro tema centrale per questo vertice è il cambiamento della missione, reinventare la NATO e dare alla NATO una missione preventiva, quindi non soltanto reattiva. Di questo si lamentava Jones, dice finora la NATO è intervenuta tardi, arrivava quando magari un conflitto era esploso, quando le difficoltà erano ormai incontenibili. Invece occorre ristrutturare la NATO in modo che ci siano assistenza umanitaria, aiuti pronti ad intervenire prima che la situazione di crisi in una zona, in un paese, in una regione, in un'altra esploda. Ultimo punto, la questione finanziaria. Raccogliere risorse, da una parte risorse nuove, dall'altra rendere più efficiente l'organizzazione con l'utilizzo delle risorse finanziarie che ci sono adesso. Beh, raccogliere risorse nuove è questione quanto mai difficile in questo periodo. Grazie a Mario Platero per la sua corrispondenza da Strasburgo, ma ieri sera sono anche scoppiati tafferugli fra manifestanti e agenti nei pressi del villaggio No Global allestito alla periferia di Strasburgo. 300 le persone arrestate, un centinaio sono ancora in stato di fermo. Com'è ora la situazione? Lo chiediamo ad Attilio Geroni. La situazione resta sempre molto tesa. Strasburgo oggi stamattina è una città spettrale, blindata, come accade spesso durante questi vertici internazionali, che sono sempre molto contestati. Ieri sono state fermate 300 persone, di queste in seguito agli scontri armati anche con la polizia, e di queste 370 sono ancora in stato di fermo. Secondo il Comitato Internazionale Antinato, il Coordinamento Internazionale Antinato, però a organizzare il tutto, a causare gli scontri con la polizia, non sarebbe stato il fronte antinato, ma un gruppo di giovani che viene da un quartiere popolare di Strasburgo. Sarebbero stati loro a organizzare la parte più violenta e più diretta degli scontri con le forze dell'ordine. Infatti il Coordinamento Internazionale Antinato condanna qualsiasi tipo di violenza e si dissocia da quello che è accaduto ieri a Strasburgo. Ripeto, città blindata, è iniziato, c'è stato il bilaterale tra Barack Obama e Nicolas Sarkozy, la situazione resta sempre molto tesa. E grazie ad Attilio Geroni per questi aggiornamenti. Abbiamo sentito delle proteste contro il vertice NATO, ieri di quelle contro il G20. Come sta cambiando il movimento no global? Se c'è ancora anti-americanismo nell'era Obama, ne parliamo più avanti nel corso del GR Extra Large. E veniamo alla politica italiana, perché di nuovo scontro sulla legge 40, quella che regola la procreazione assistita. Scontro che arriva dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato alcuni punti e dopo le dichiarazioni di ieri di Gianfranco Fini. In diretta da Roma, Andrea Viali. Sì, Alessandra, oggi questo scontro vede su fronti opposti i presidenti di Camera e Senato, perché stamattina Renato Schifani ha detto di non condividere le critiche che, come dicevi, erano state mosse ieri da Gianfranco Fini alla legge sulla procreazione assistita. Il presidente della Camera, ricordiamo, aveva detto in sostanza che la sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato in parte questa legge ha difende i diritti delle donne da un provvedimento che, secondo Fini, è basato su dogmi di tipo etico-religiosi. Non la pensa così invece il Presidente del Senato. Dicevamo che stamattina ha difeso la legge 40, Schifani parlava dall'Afghanistan dove sta visitando le nostre truppe, ha detto che si tratta di una buona legge che tra l'altro ha affrontato tanti passaggi parlamentari, un dibattito lungo con voti segreti nei quali i parlamentari, dice Schifani, hanno votato secondo coscienza, per cui a parlare di dogmi troverei qualche difficoltà, ha detto il Presidente del Senato, che dunque si trova di nuovo in disaccordo con Fini a dividere i due. Pochi giorni fa, lo ricordiamo ancora, era stato il giudizio sul testamento biologico, un'altra legge, una legge da stato etico, aveva detto Fini, mentre Schifani anche oggi ha ripetuto che sia sulla procreazione assistita sia sul testamento biologico il Parlamento ha votato secondo coscienza e ha espresso il suo orientamento, per cui non è corretto parlare di leggi da stato etico. Per ora è tutto, linea allo studio. Grazie Andrea. Parliamo di televisione adesso, perché c'è stato un grande successo di pubblico per lo show di Fiorello ieri sera sul nuovo canale Sky 1. Eh sì, circa 1 milione di spettatori in media, che è un record per i canali della Pay TV. A livello di share ha catturato il 13% degli ascolti degli abbonati Sky. Se confrontata con la TV generalista, lo share è stato del 2,9%, per intenderci quanto in genere la raccoglie la prima serata della 7. Ma sentiamo alcune battute dello show, a partire da quella sul sindaco di Roma Alemanno. Alemanno si interessa già di ecologia e si iscrive a un movimento contro l'inquinamento da flautolenza. Boia chi molla. E poi naturalmente Fiorello ha ironizzato sul famoso incontro con Silvio Berlusconi, quello che lo aveva chiamato, il premier aveva chiamato Fiorello a Palazzo Grazioli quando si erano diffuse le voci di un possibile passaggio a Sky dello stesso showman. Devi venire qua a Palazzo Grazioli, ti devo dire 2 o 3 cose che tu non sai su questa cosa che stai per fare. Presidente, guarda, se vengo a Palazzo Grazioli domani lo sanno tutti, ma dai, vieni qui, non ti vede nessuno, ti dico quello che devo dire e vai a casa. Non se ne è accorto nessuno. Successo di pubblico dunque, ma cosa ne pensano i critici televisivi? Gianluca Nicoletti, tutti i giorni dalle 10 su Radio 24, conduce Melog 2.0. Gianluca, come ti è sembrato lo show? Sembra il luogo comune dire quello che tutti hanno già scritto questa mattina, naturalmente ha deluso, ma era anche eccessivo l'apparato di amplificazione, o tutto fa parte, come dicono delle cattive lingue, è di un importante, divertente, sottile gioco mediatico, per cui alla fine era stato promesso l'altro mondo, in realtà si è visto uno spettacolo abbastanza modesto, con Fiorello che naturalmente non era proprio nel massimo del tono, e poi anche Alemán non è il massimo dell'ospite che si può avere a Roma. Non può che naturalmente crescere, anche se le crescite nei numeri di un canale satellitare non sono certo le crescite che ci si immagina in un canale generalista. Andare poi contro al Grande Fratello, che per l'occasione aveva schierato tutto il fuoco di artiglieria con Gerry Scotti e faceva il milionario, è un po' la battaglia della formica contro il gigante, ma qua non si parla di ascolti, qua si parla di qualcosa che sta cambiando radicalmente nell'assetto della televisione italiana. Insomma, Fiorello ha rimesso insieme un po' i suoi vecchi spettacoli, però la nota è che comunque Sky vuol fare concorrenza alle generaliste. Fare concorrenza vuole nell'immaginario comune e collettivo mettere l'idea che c'è qualcos'altro oltre la TV generalista. Non farà concorrenza in termini di numeri, ma fa concorrenza in termini di quello che si dice brand. Comincia a essere un brand, cioè un marchio che fa l'occhiolino anche a un pubblico generalista, un pubblico che finora non avrebbe mai immaginato di fare lo sforzo di farsi un abbonamento e un decoder, poter vedere la televisione. Oggi probabilmente abbastanza deluso dallo spettacolo monotono che esiste sui canali generalisti, si affaccia un attimo a guardare anche quello che accade dall'altra parte, vede volti conosciuti, rivede Marchi Buongiorno, vede Fiorello, vede Panariello, vede la Cuccarini, e gli sembra di essere a casa sua, anche se deve pagare un affitto per andare in quella casa. Reazioni politiche a questo show di Fiorello? Beh, è molto singolare, per questa mattina sul magazine di Fare Futuro, che è la fondazione culturale Gianfranco Fini, c'è un'apologia di Fiorello smisurata, vede Fiorello come addirittura l'uomo nuovo del centrodestra, il Popolo delle Libertà dovrebbe ispirarsi a Fiorello come modello umano e culturale. È un po' paradossale, forse sinonimo di una piccola frizione, perlomeno sui modelli esistenziali, perché contemporaneamente Fiorello è il simbolo del tradimento a Mediaset, è colui che fa dello sbeffeggiamento a Berlusconi la chiave comica del suo programma, è tutto un inneggiare al suo ciuffo che gli avrebbe chiesto Marduk di inalberare per fare invidia al Cavaliere, di raccontare sotto forma di sketch la sua convocazione a Palazzo Grazioli. Insomma, è divertente e paradossale che esista anche questa versione double face di Fiorello che piace alla destra, ma contemporaneamente dovrebbe essere l'elemento di frattura nella destra, e fa parte comunque di un grande uomo di spettacolo e fa parte di una grande idea pubblicitaria intorno a una persona. Ebbene, vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Grazie Gianluca Nicoletti. 3 italiani su 10 hanno dichiarato nel 2006 meno di 10.000 euro di guadagni. Ne parliamo fra poco. GR Extra Large, le 13:17 minuti. Nella prima parte abbiamo parlato del vertice che celebra i 60 anni della NATO, che si è aperto oggi. Sta iniziando in questi minuti, tra l'altro, la conferenza stampa di Nicolas Sarkozy e Barack Obama. Abbiamo parlato anche dei 300 arresti che ci sono stati ieri negli scontri. Abbiamo parlato di politica perché c'è stata una reazione del presidente del Senato Schifani a Fini sul tema della legge 40, una reazione molto dura. Abbiamo parlato del buon successo di pubblico di ieri di Fiorello nella sua prima puntata dello show su Sky 1. Adesso parliamo di redditi degli italiani. Sapete quanto guadagnano in media gli italiani? Oggi sono state diffuse le dichiarazioni dei redditi del 2007, che si riferiscono naturalmente ai guadagni del 2006. Ebbene, è emerso che il reddito medio degli italiani è di 18.324 euro e che 3 italiani su 10 hanno dichiarato, sempre nel 2006, meno di 10.000 euro di guadagni. Jean-Marie Delbo, collega del Sole 24 Ore, in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora Jean-Marie, che cos'è evasione? Insomma, che 3 italiani su 10 guadagnino meno di 10.000 euro fa una certa impressione. Fa una certa impressione, probabilmente l'evasione ha un suo peso, anche se diciamo il dato che forse stupisce ancora di più è quanto pochi italiani guadagnino più di 70.000 euro, perché le statistiche di quest'anno confermano, sebbene con un piccolo aumento, che solo il 2% degli italiani guadagnerebbe più di 70.000 euro. Abbiamo pochi ricchi. un dato che secondo me non è supportato dall'osservazione che uno può fare sul tenore di vita delle persone che lo circondano, insomma. Quindi la famosa, diciamo, incapacità di incrociare il numero di Porsche Cayenne con il numero di... Esatto, emerge pienamente dal fatto che solo il 2% sopra i 70.000 euro è effettivamente un numero molto poco rappresentativo della realtà. Peraltro c'è da dire che le dichiarazioni del 2007 riportano un incremento, perché si passa dall'1,78 al 2,11% per i soggetti sopra i 70.000 euro. C'è da dire che aumenta anche il numero di coloro che stanno sotto i 10.000, di un 2 punti percentuali, ecco, circa. Ecco, come possiamo interpretarlo questo dato? Il dato secondo? Quello sui 10.000 euro. Probabilmente c'è stato un problema di minori guadagni che si è riflesso necessariamente nelle dichiarazioni dei redditi. Oppure potrebbe essere l'effetto di una maggiore capacità di sfruttare gli sconti che man mano si consolidano nel tempo. Il 2007, le dichiarazioni del 2007 avevano in qualche modo goduto di un vantaggio, cioè quello, soprattutto per l'IRPEF, di muoversi su un quadro che per le persone fisiche era abbastanza consolidato. Quindi potrebbe anche essere la capacità migliore di muoversi all'interno dei meandri del fisco. Benissimo, aspettiamo naturalmente e con grande attenzione i dati sulle dichiarazioni 2007 e vedremo che cosa emergerà, perché forse là c'è stata la vera stretta sull'evasione, Jean-Marie. Diciamo che la contingenza politica è stata molto particolare, si è a lungo parlato di effetto Visco per le dichiarazioni. Allora, le dichiarazioni 2007 sono state quelle che si sono svolte effettivamente, tra virgolette, Visco regnante. Nel 2008... sebbene il quadro normativo sia stato costruito dal governo allora di centrosinistra, già c'era stato il cambio di guida. Quindi le dichiarazioni 2008 e i dati dell'anno prossimo ci consentiranno di verificare se c'era veramente questo effetto, forse no. Grazie a Jean-Marie Delbo del Sole 24 Ore per averci aiutato a capire qualcosa in più di questi dati sulle dichiarazioni dei redditi del 2007. Che bastardi! 2.000 euro per essermi ammazzata lì dentro per 20 anni! Potremmo fare ammazzare il padrone da un professionista? Sì! Beh, sì, non siamo completamente impazziti, naturalmente. Non erano dichiarazioni nei confronti di quelli che non dichiarano tutto al fisco. No, assolutamente. Si tratta di un film che esce oggi nelle sale italiane e si chiama Louise Michel ed è una commedia nera francese che ha avuto un grande successo e grandi apprezzamenti. In sostanza, per stringere una fabbrica che chiude in Francia e le operaie rimaste per strada decidono di far ammazzare il loro padrone, ingaggiano uno strano killer, una vera commedia nera in sostanza, che però in qualche modo, Alessandra, sembra dare il clima di quello che sta succedendo. Anticipato un po' i tempi, fortunatamente non siamo arrivati ai livelli della commedia nera, appunto, di dipendenti che pensano di uccidere il capo, ma abbiamo sentito nei giorni scorsi di vari casi di dipendenti che hanno preso in ostaggio, fra virgolette, insomma hanno trattenuto negli uffici, questo in Francia, i capi che in qualche modo avevano annunciato licenziamenti prossimi. Insomma, il quadro, in particolare quello europeo, sembra un quadro che si arricchisce in qualche misura di una certa tensione sociale, dal quale non sono esenti i movimenti di piazza di questi giorni, quelli del G8 per esempio, o anche gli scontri dei quali vi abbiamo parlato in apertura al lato del vertice della NATO. Insomma, ci si chiede se sta cambiando il movimento no global, se per esempio è venuto meno quell'anti-americanismo che li aveva caratterizzati nei primi tempi, vista la presidenza di Barack Obama. Sentiamo. Niente bandiere a stelle e strisce bruciate, niente slogan come Yankee Go Home. Le caricature e gli attacchi sono tutti per i super banchieri e le multinazionali come Starbucks. I no global sono tornati, ma non sono gli stessi di Porto Alegre. La rabbia non è più diretta contro l'America, anzi Barack Obama, se non un'icona, è almeno una speranza. Marco Revelli, docente di scienze della politica a Torino. Bisogna dare atto, dare un riconoscimento, potremmo dire, postumo a quel movimento. Aveva messo il dito nella piaga, aveva denunciato l'assurdità di un sistema socio-economico che è quello che poi ha portato ai disastri di oggi. Genova ha pesato come un macigno sulla vicenda di quel movimento, ha chiuso una fase. Tutto questo ha respinto nel silenzio la maggior parte di quei giovani. Sono rimasti le schegge militanti di quell'esperienza, devo dire non sempre le più consapevoli. Chi pensava che ci fosse una prevenzione ideologica di anti-americanismo può stupirsi che oggi l'immagine degli Stati Uniti sia vissuta con maggior simpatia. E Obama è l'opposto di George Bush. Obama si presenta dicendo siamo per ascoltare, non solo per insegnare, è un cambiamento di linguaggio radicale. E poi indubbiamente il timore di tutti è che l'operazione fallisca. E i No Global italiani che fine hanno fatto? Sparito Luca Casarini, non batte un colpo neppure Francesco Caruso, ne abbiamo parlato con Vittorio Agnoletto. Devo dire che la presenza italiana forse per la prima volta è una presenza fortemente limitata, queste manifestazioni, indubbiamente il movimento sta cercando di uscire da una fase di forte crisi e questa crisi è coincisa con il governo cosiddetto di centrosinistra e col governo Prodi, quindi c'è stata una profonda delusione. Sappiamo che in questo momento a sinistra siamo una minoranza in questo paese e se non raccogliamo maggiori consensi non abbiamo nessuna possibilità di riuscire a vincere lotte locali. Quando finiamo su tutti i giornali o su tutte le televisioni perché qualcuno rompe una vetrina, le cause o le istanze del movimento non fanno un passo avanti. Da come si è cercato di criminalizzare il movimento a Genova, qualcosa anche abbiamo imparato. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Dai movimenti di sinistra a quelli di destra. A Milano ci sono dei timori per l'ordine pubblico in vista del raduno di esponenti di estrema destra previsto per domenica. Oltre 1000 tra poliziotti e carabinieri saranno schierati fin da domenica mattina a Milano. Il ricordo degli scontri tra i neofascisti di Forza Nuova e di centri sociali in corso Buenos Aires nel 2006 è ancora fresco e c'è il timore che la città domenica riviva quei momenti. Il Ministero degli Interni infatti ha autorizzato un convegno di esponenti dell'estrema destra europea organizzato dall'europarlamentare di Forza Nuova Roberto Fiore. Portare esponenti politici importanti europei come Golnisch, che rappresenta il Front Nazionale ed è deputato europeo da oltre 20 anni, e una delle persone di spicco del British National Party, un rappresentante anche di una formazione greco-cipriota, a Milano per parlare dell'Europa e parlare della crisi. Il tema fondamentale è la crisi e come noi vogliamo appunto risolverla. Le associazioni partigiane di ex deportati deporranno una corona di fiori in Piazza della Scala. Con loro potrebbero esserci esponenti dell'area antagonista e dei centri sociali. Il presidente dell'Associazione Partigiani Lombarda, Antonio Pizzinato. Noi ritiriamo autorizzare a svolgersi a Milano, capitale della resistenza e città medaglia d'oro, di una iniziativa di associazioni neofasciste o neonaziste e di condannati per questa loro posizione in Grecia, in Francia, in Germania, sia un'offesa alla città, alla sua storia e a coloro che hanno dato la vita per dare la libertà a tutti noi che ne fruiamo da 64 anni. Il rischio è che dalle due manifestazioni possano partire piccoli gruppi in cerca di scontri. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di arte ora perché i capolavori del giovane Raffaello sono in mostra fino al 12 luglio a Palazzo Ducale ad Urbino. Raffaello e Urbino è il titolo dell'esposizione che si apre da domani nella città marchigiana, che non solo diede i natali al grande pittore, ma influenzò in modo significativo la sua formazione, restando per lui sempre un essenziale punto di riferimento. Urbino fu un centro fondamentale della cultura rinascimentale e già all'epoca di Federico da Montefeltro rivaleggiava con Firenze. Il soprintendente ai beni storici, artistici ed etnoantropologici delle Marche e curatrice della mostra, Lorenza Mocchi Onori. La mostra ha delle novità, vuole dimostrare una tesi che la formazione di Raffaello nasce dalla grande cultura urbinate, dalla cultura del Rinascimento voluto da Federico per questa città, dal Rinascimento che quando Raffaello si forma nell'ultimo decennio del 400 era al suo apice, e soprattutto il padre di Raffaello, Giovanni Santi, era un personaggio di grande spessore culturale, letterato, poeta, grande pittore, questo dalla mostra emerge, e soprattutto una persona che conosceva perfettamente la storia dell'arte dell'epoca, i pittori dell'epoca di cui era amico, quindi un padre di questo tipo certamente ha avuto un grosso influsso nel figlio e la continuità di questa bottega, la continuità di questo rapporto, spero che mostra sia chiara. Per raccontare la stretta connessione tra Raffaello e la sua città natale, la mostra allestita a Palazzo Ducale presenta i capolavori giovanili di Raffaello, 20 dipinti e 19 disegni originali, messi a confronto con lo stile pittorico di altri artisti cruciali per la sua formazione, da Filippo Lippi a Perugino, da Mantegna a Signorelli, soltanto per citarne alcuni, ma anche del padre Giovanni Santi, nella cui bottega Raffaello, ancora adolescente, diventò maestro. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. La Corte del Malawi ha detto no a Madonna che voleva adottare una bambina. Ne parliamo fra poco. GR Extra Large, un rapido riepilogo delle principali notizie di giornata. Si apre il vertice per i 60 anni della NATO, incontro tra Obama e Sarkozy. Il presidente americano dice vorremmo una più robusta difesa europea. Scontri prima del summit, ieri a Strasburgo ci sono stati 300 fermi, 70 persone sono ancora in cella. E G20 si accorda sui paradisi fiscali, tra poco cercheremo di capire cosa cambia per la Svizzera e se c'è già una fuga di capitali dalla Confederazione. 3 italiani su 10 hanno dichiarato nel 2006 meno di 10.000 euro all'anno, solo il 2% ne dichiara più di 70.000. Da Schifani uno stop a Fini dopo le dichiarazioni del presidente della Camera sulla legge 40. Sono buone norme, dice il presidente del Senato, senza dogmi. L'alta corte del Malawi dice no a Madonna e rigetta la domanda di adozione presentata dalla pop star. In Afghanistan adesso, dove il presidente Hamid Karzai, ve lo abbiamo raccontato, ha firmato alcuni giorni fa una legge che secondo alcune parlamentari afghane serve ad aumentare i consensi elettorali in vista delle prossime presidenziali. È una legge sulla famiglia fatta ad hoc per la minoranza sciita che di fatto legalizza lo stupro all'interno del matrimonio e fra l'altro vieta alle donne di uscire di casa senza il permesso del marito. Cristina Balotelli ha intervistato Orzala Ashraf, afghana, attivista per i diritti umani, presente alla conferenza dell'AIA. Questa legge è stata messa a punto dal Parlamento e presentata al presidente Karzai già l'anno scorso, ma alcuni deputati, supportati da diverse organizzazioni in difesa dei diritti umani, erano riusciti a bloccarla o quantomeno a cercare di renderla simile a quella di altri paesi. Ma la versione finale della bozza è stata firmata da Karzai senza che vi fosse il consenso ed evitando di farla passare attraverso un processo trasparente in Parlamento. Molti parlamentari non erano neanche al corrente che la legge stesse per essere approvata. Ma questa legge è anticostituzionale? La Costituzione afghana permette alla popolazione sciita, che è una minoranza, di avere un proprio diritto di famiglia e decidere come comportarsi. Ma è anche vero che nella Costituzione abbiamo l'articolo 7 che dice che non si possono approvare leggi in Afghanistan che vadano contro i principi base di tutte le convenzioni che ha firmato il Paese. La legge firmata da Karzai va contro alcuni principi base, questo può essere l'appiglio per la società civile, per le varie organizzazioni in difesa dei diritti umani, per abrogarla. Non conosco le procedure legali da seguire per fermare questa legge, ma in questi giorni avremo un incontro in Afghanistan proprio per capire come fare, quali vie percorrere. Lei era alla conferenza internazionale sull'Afghanistan che si è svolta all'AIA in qualità di rappresentante delle donne afghane. Quali sono state le reazioni dei politici presenti all'AIA quando si è saputo di questa legge? Sì, ci sono state reazioni. Il ministro degli esteri finlandese, per esempio, ha sollevato la questione e l'ha rivolta al presidente afghano e alla sua delegazione. Naturalmente non c'è stata alcuna risposta in merito da parte del presidente afghano. Anche rappresentanti delle Nazioni Unite e altri partecipanti alla conferenza hanno sollevato o menzionato il problema. Come donna che si batte per la difesa dei diritti umani, ci può dire quali saranno ora le conseguenze sul suo lavoro e su quello di tante altre persone? Chiaramente questa legge rende inutile il lavoro fatto in passato per migliorare la condizione della donna. Se applicata, la situazione delle donne in Afghanistan sarà peggiore di qualsiasi altro periodo del passato. Pensa che così facendo Karzai abbia venduto il paese ai talebani e più in generale ai fondamentalisti islamici? Sì, certo, dobbiamo fare qualcosa come società civile e se non riuscissimo a ottenere nulla a livello nazionale dovremo chiedere aiuto ai nostri partner internazionali. Vorremmo avere il sostegno davvero della comunità internazionale. E ora andiamo in Arabia Saudita. E sentiamo il racconto di Adib Fateh Ali. È festa grande nella penisola araba per il regalo piovuto dal cielo sui loro emirati. Ma attenzione, non si tratta della pioggia di miliardi decisi dal vertice dei G20 per sostenere l'economia mondiale. Sono 18 miliardi di litri di acqua regalati dal cielo per i 40 milioni di palme del deserto, quello che festeggiano gli abitanti dei 7 piccoli emirati arabi che si affacciano sul Golfo Persico. La bassa pressione che ha interessato la zona ha portato eccezionali piogge torrenziali durate 3 giorni. Ieri decine di migliaia di fedeli hanno pregato per ringraziare Allah di un dono atteso da 15 anni. Torniamo in Italia perché la notizia sta suscitando polemiche. A Foggia, precisamente a Borgo Mezzanone, ci sono due diverse linee di autobus che conducono al centro della città, al centro di Foggia. Una per i residenti della borgata, un'altra per gli ospiti del centro di accoglienza. Diverse anche le fermate, tanto che c'è chi ha parlato di razzismo, addirittura di apartheid. Le linee distinte in vigore già da tempo sono state ultimamente intensificate. La decisione è stata presa dalla società trasporti ATAF e dalla prefettura. Raffaella Calandra ha intervistato il dirigente della prefettura che se ne è occupato, Giuseppe Massià. Sono, penso forse un paio di anni che ci sta, vado a memoria, non è mica una cosa nuova, e le spiego anche perché è stata realizzata, perché lei immagina, allora, la capienza del campo prima era di 500 persone. Dall'estate dell'anno scorso è stata portata a 1000, ora è a 900. Tenga presente che nella borgata là abitano 800 persone. Allora, se noi mettiamo un solo autobus che possa servire sia gli immigrati che la popolazione della borgata, questi della borgata non riescono a prenderlo mai. No, in che senso non riesco a prenderlo mai? No, perché gli immigrati arrivano e occupano tutti i posti, quindi la popolazione locale, voglio dire, in certi momenti ci sono state situazioni anche di tensione, qualche parola, qualche schiaffo, questo è successo un po' di tempo fa. Quindi ovviamente si è reso necessario andare a servire sia gli immigrati sia gli abitanti della borgata. E quindi... l'unica cosa nuova è che ci hanno finanziato un attimino un miglioramento di questo servizio. Quindi l'unica cosa nuova di questi giorni, che mi pare strano che sia venuta fuori questa notizia, che è stata fatta ex novo una doppia linea, l'unica cosa nuova di questi giorni è questo finanziamento, sostanzialmente. Una cosa del genere, anche se alle spalle ha un problema di tipo organizzativo, appunto come lei ci spiega, rischia sempre un po' di sembrare come una linea soltanto per gli immigrati e un'altra soltanto non per gli italiani. Non, tanto è vero che continuano anche gli immigrati a prendere l'altra linea in misura minore. C'era un presidio fino al 31 dicembre delle forze dell'ordine nella borgata. Ma lei immagini, allora, le dicevo prima, 200-300 persone che prendono un autobus urbano, di linea urbana, secondo lei si creano momenti di tensione o no? Secondo lei non sarebbe opportuno anche andare a istituire più linee? Però i soldini che ci stanno sono quelli. Allora, la soluzione penso corretta che è stata trovata è istituire una linea per gli abitanti della borgata. Ma ripeto, se salgono gli immigrati su quella linea, nessuno li getta via, li getta fuori, ci mancherebbe altro. È una linea per gli ospiti del campo. Questa è la situazione. Un esempio di convivenza pacifica fra diverse etnie e diverse religioni arriva da Torino, dove all'ospedale Le Molinette è stata aperta una sala contemplazione dove ognuno può pregare in base al proprio credo. Tutto è cominciato qualche anno fa, quando cristiani cattolici, evangelici, ortodossi, insieme a ebrei, musulmani, buddisti e induisti, si sono messi d'accordo per garantire assistenza spirituale a tutti gli ospiti, atleti e non solo, delle Olimpiadi di Torino 2006. Allora è nata l'esperienza del Comitato Interfedi, che ha consentito ai rappresentanti delle diverse religioni presenti sotto la mole di pensare e agire insieme. Proprio lì è nata l'idea di dotare l'ospedale delle Molinette, il più grande del Piemonte, di una stanza del silenzio, spazio assolutamente neutro dentro al quale quale ognuno è libero di riflettere e pregare a suo modo. Il colore dominante è l'azzurro, puntellato da piccole luci che ricordano un cielo stellato. Nessuna icona, libro o altro riferimento a questa o quella religione, e solo chi lo desidera, prenotandosi, riceverà assistenza personalizzata. Per gli altri, solo silenzio. La stanza è stata aperta ieri in inaugurazione, preceduta da molte congratulazioni e qualche messaggio intimidatorio, che però non spaventa la direzione dell'ospedale. La stanza del silenzio, dicono, vuole essere un messaggio di pace e convivenza. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. E ora parliamo di Madonna, secondo tentativo di adozione di un bambino del Malawi, ma questa volta è andata male. Stavolta il tribunale le ha detto di no. La popstar Madonna non potrà adottare un secondo bambino originario del Malawi. Non ha risieduto a sufficienza nello stato africano, dunque non ha il diritto di portare con sé negli States la piccola Mercy James, 4 anni, orfana di entrambi i genitori. Matthews, okay. You wanna book about a bunch of girls? All right. Madonna è impegnata ormai da anni nel sostenere gli orfani del Malawi e nel 2006 la Material Girl, quasi cinquantenne, era riuscita molto facilmente ad adottarne uno, il piccolo David Banda, di 3 anni. Un'adozione che aveva suscitato molte polemiche. Le associazioni per la tutela dei minori avevano accusato la cantante di aver sfruttato i suoi soldi e il suo potere per scavalcare le lunghe procedure di adozione. Come denuncia l'ONG inglese Save the Children, la pratica delle adozioni facili finisce per incoraggiare le madri dei paesi più poveri ad abbandonare i figli in orfanotrofio nella speranza che qualche ricco personaggio li porti via. Non si sa ancora dunque se la cantante farà appello contro la decisione del tribunale o se invece deciderà di rispettare le regole del paese africano e trasferirsi in Malawi per almeno 18 mesi. Paola Cavadi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Fra poco andremo in Svizzera per parlare di paradisi fiscali. Le 13:46 minuti 44 secondi, torniamo a parlare del G20 che si è chiuso ieri. Queste sono state le principali conclusioni: triplicate le risorse del Fondo Monetario Internazionale, che saranno portate a 750 miliardi di dollari. Complessivamente le manovre di stimolo che metteranno in atto i vari paesi ammonteranno alla fine del 2010 a 5.000 miliardi di dollari. Poteri di vigilanza saranno affidati ad un organismo centrale, il Financial Stability Board, guidato da Mario Draghi. Infine ci saranno sanzioni per i cosiddetti paradisi fiscali. Ma che cosa ha rappresentato dal punto di vista politico questo G20? Il commento di Marta Dassù dell'Aspen Institute, intervenuta questa mattina a Parliamo con l'Elefante di Giuliano Ferrara. Il primo vertice di Obama, e credo che Obama abbia giocato una carta globalista, molto asiatica, a Londra, anche perché oggi poi sarà la NATO e quindi vedrà gli europei, ma insomma l'esordio è stato decisamente spostato da quella parte con i suoi vertici bilaterali con Cina, Russia, Corea del Sud e così via. Secondo me è andato abbastanza bene, devo dire, rispetto alle previsioni di grandissime divisioni della vigilia. Credo che gli europei abbiano fatto un po' uno show per marcare le loro differenze, in particolare Sarkozy, che secondo me ha giocato una carta di politica interna e basta. Lo vediamo oggi, la Francia rientra nel comando militare integrato della NATO, che è una cosa ovvia, mi pare, dopo 40 anni, ma Sarkozy è stato molto criticato a destra, all'interno, e quindi ha fatto una mossa un po' gollista, questo minacciare una seggiola vuota sui paradisi fiscali. Era chiaro che l'accordo ci sarebbe stato. Quindi un Obama asiatico, un'Europa che ha un po' giocato, secondo me, e il G20 credo che in queste materie abbia soppiantato il G8. C'è già un prossimo vertice previsto di verifica in settembre a New York, e quindi credo il significato sia un po' questo. In queste materie così importanti il G20 è il formato, il G20 più, insomma. Al G8 resta un po' di politica, resta l'aiuto allo sviluppo, ci sarà una giornata africana in Sardegna, ma insomma non c'è dubbio che dal momento in cui la Cina detiene gran parte delle riserve finanziarie mondiali, ha così tanti bonds del tesoro americano, eccetera, eccetera, il formato G8 appare obsoleto nella materia economica e finanziaria. E questo è il quadro generale, ma veniamo al tema dei paradisi fiscali collegandoci con Lino Terlizzi in diretta dalla vicina Svizzera. Lino, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Lino, a questo punto ci sono timori, secondo te, di una fuga di capitali dalla Confederazione oppure no? Ma solo in parte, direi, perché la ragione è questa, che la vicenda del segreto bancario dei paradisi fiscali in parte si è già giocata, cioè quando nelle settimane scorse la Svizzera ha deciso insieme ad altre piazze finanziarie di allentare il segreto bancario per favorire, dopo la pressione di Stati Uniti ed Europa in particolare, la lotta all'evasione fiscale, ebbene in quel momento c'è stato il grande timore di fuga di capitali, che per ora diciamo non c'è stata se non in grandi dimensioni, e forse la ragione è che non è solo la Svizzera ma sono un po' tutte le piazze finanziarie principali ad aver fatto un passo indietro, quindi c'è preoccupazione ma non più di qualche giorno fa. Grazie Lino Terlizzi, abbiamo poco tempo quindi avremo modo di approfondire anche questo argomento in futuro. Parliamo di ripresa economica adesso dopo il G20, che passa anche per la tradizione. Eh sì, per la tradizione ma anche per la cultura, fra dibattiti ed incontri sulla crisi al Festival delle Città e Impresa, in programma fino a domenica in alcune cittadine del Trentino, Friuli e Veneto, c'è spazio anche per la letteratura e per un premio che anno dopo anno rende onore al mistero. Intrighi, sospetti, indagini e ovviamente un colpevole sono gli ingredienti necessari per un giallo che si rispetti. Il titolo giusto potrebbe essere Lama e Trama, ma violeremmo le regole del diritto d'autore perché si chiama così il premio nazionale dedicato proprio al genere. La trama è quella del giallo, la lama non solo è l'arma del delitto, ma anche il simbolo di Maniago, patria dei coltelli e città veneta in provincia di Pordenone che ospita la rassegna. Questa sera viene presentata la 7ª edizione. Antonio Paolacci, coordinatore del premio, ci dà un'anteprima. Oltre al premio per i racconti che a cadenza annuale, l'anno prossimo torneranno il premio alla tesi di laurea e al radiodramma, mentre quest'anno avremo la prima edizione del premio al cortometraggio e al monologo teatrale. Sono tante quindi le forme espressive, l'importante è che la trama parli di coltelli. Nel tempo sono stati oltre 1700 i racconti sottoposti alla giuria del premio. Dal prossimo 6 aprile il bando è online per partecipare all'indirizzo lamaetrama.it. Vanni Truppi, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, un rapido riepilogo delle notizie di giornata. Si apre il vertice per i 60 anni della NATO, incontro tra Obama e Sarkozy. Il presidente americano dice ci vuole un'Europa militarmente più forte. E ci sono stati scontri ieri prima del summit a Strasburgo. 300 fermi, 70 persone sono ancora in cella. 3 italiani su 10 hanno dichiarato nel 2006 meno di 10.000 euro, solo il 2% ne dichiara più di 70.000. Schifani dà uno stop a Fini dopo le dichiarazioni del presidente della Camera sulla legge 40, sono buone norme, dice Schifani, senza dogmi. L'alta corte del Malawi dice no a Madonna e rigetta la domanda di adozione presentata dalla pop star. Ed è tutto per questa edizione, condotta e curata da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Abbescapé. Il prossimo giornale radio è alle 15, il GR Extra Large torna naturalmente lunedì alle 13 con Alessio Maurizi ed Anna Migliorati. Se volete scriverci potete farlo a extralarge@radio24.it, se volete riascoltarci www.radio24.it, sito sul quale trovate naturalmente molte altre cose. È tutto. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.